Packer per intenderci. Su Subiendo uno che è uno spazio piuttosto ampio di appartenenza ai monopoli di abbandono da almeno 10 anni. È uno spazio che abbiamo voluto segnalare, diciamo, riprendendo il discorso della riappropriazione diretta e di spazi che evidentemente per i giovani mancano all'interno della nostra città, e di beni e servizi. Cioè, questa occupazione simbolica che ricorda anche l'occupazione invece più pratica che c'era stata quattro anni fa, nel 2008, che era finita dopo 6 ore con lo sgombero, con 30 persone del reparto celere, che arrestarono 4 ragazzi, tra cui 3 minorenni. Perciò adesso stiamo ricordando quel momento, stiamo segnalando questo posto e poi probabilmente ripartiremo in corteo. Quindi adesso siete nella zona di via Induno con questa occupazione, diciamo, simbolica? Sì, è un'occupazione simbolica, giusto per segnalare il posto. Ecco, bene. Beh, adesso poi riproseguite verso il Ministero? Sì, probabilmente proseguiamo verso il Ministero, poi capiamo se scioglierci lì oppure se tornare indietro verso Testaccio e poi sciogliere il corteo lì. Va bene, allora ci risentiamo più tardi. Va bene, a più tardi. Ciao.